quasi 10 minuti passate l'una di questo martedì 13 ottobre 2015, mi suggeriscono dalla regia un ben trovati, ben trovate ancora sulle libere frequenze di Blackout sui 105-250 in FM. Va in diretta quest'oggi la trasmissione Cattivi Pensieri, un buongiorno da Simone. E un buongiorno anche da Toshi. Quindi riprendiamo le dirette ancora una volta qua dai domiciliari dorati del buon corredattore, insomma ancora ristretto agli arresti domiciliari, quindi i potenti mezzi di Radio Blackout anche per questa settimana ci permettono di trasmettere direttamente da casa, dai domiciliari. Insomma, una grande occasione per poter dare continuità anche alla trasmissione. Vi ricordiamo i contatti per entrare in comunicazione con Cattivi Pensieri in questa giornata di martedì. Il numero, insomma, valido soltanto naturalmente per questa oretta e mezza in nostra compagnia, è il 320-88-27-255. Ripeto, 320-88-27-255. Vi ricordo naturalmente anche l'altro contatto sempre valido, che è il sito internet di Radio Blackout, www.radioblackout.org, per poter ascoltare la radio via streaming e poter riascoltare tutte le dirette preparate dalla redazione informativa, da tutte le altre trasmissioni del ricco palinsesto blackoutiano. E naturalmente per essere sempre aggiornati sulle iniziative a sostegno di Blackout, si ricomincerà da questo weekend, sabato, grande festa di apertura della sede di Via Cecchi 21A. Quindi non mancate a tutte le iniziative appunto per sostenere questa radio, che si mantiene grazie alla solidarietà di tutti i suoi grandi e numerosi ascoltatori. Allora, da questo martedì 13 ottobre arriviamo a ridosso di una data importante che appunto da questi microfoni avrete già sentito parlare. Stiamo ovviamente facendo riferimento al 15 di ottobre, quindi tra due giorni, giorno in cui comincerà il secondo grado, l'appello di un processo che ci ha visto impegnati. Stiamo parlando del processo ai quattro compagni che, appunto, accusati di aver dato vita ad un attacco al cantiere di Chiomonte. Il cantiere di Chiomonte in cui si va a costruire una tratta italiana della Parigi-Torino. La Torino-Lione, scusate. Un attacco, un sabotaggio avvenuto ormai 2 anni fa, in una notte di maggio, a metà maggio. Un processo che ha visto delle lunghe detenzioni, i compagni sono ancora ai domiciliari, ma delle lunghe detenzioni preventive in carcere, in sezioni speciali. La puntata di oggi vuole essere riassunto di quello che è successo in questi ormai 2 lunghi anni. E abbiamo preparato una puntata un po' speciale con i mezzi potenti della tecnologia di cui attingiamo a piene mani. Siamo riusciti a fare una intervista, ovviamente non è in diretta dato che io purtroppo non mi posso muovere, ma un'intervista che abbiamo montato con 3 dei 4. Per ragioni di tempo ovviamente non abbiamo potuto sviscerare tutti i problemi che un processo di questo tipo e l'azione che sottintende può mettere sul piatto, ma cerchiamo di dare un contributo, soprattutto andiamo a ripercorrere alcune tappe. E soprattutto sentiremo le voci dei diretti interessati. Come al al solito però Cattivi Pensieri inizia con un po' di buona musica, ci scaldiamo le orecchie e poi iniziamo con questi contributi audio in questa puntata di quest'oggi. Rimanete sintonizzati su Blackout. Sempre in onda su Blackout, sempre in onda con Cattivi Pensieri, da appunto non dallo studio di Via Cecchi, siamo ai domiciliari in cui mi trovo tuttora ristretto. Ricordiamo il numero provvisorio per questa trasmissione che è 320-88-27-255, quindi 320-88-27-255. Allora, Cattivi Pensieri prova a cimentarsi con un riassunto generale su, per quello che riguarda il processo che vede imputati quattro cari compagni per un attacco avvenuto nel ormai lontanissimo maggio del 2013. Ho preparato un breve riassunto storico per ricordarci le tappe principali di questa vicenda. Soprattutto nei suoi risvolti penali. Quindi questo attacco, non molto diverso da altri che appunto ha visto protagonista il cantiere e i nemici dell'alta velocità, ha avuto luogo il 13 di maggio del 2013. Il 9 dicembre quattro compagni vengono colpiti da mandato di cattura. Chiara si trova a Torino, Claudio nei dintorni perché allontanato da un foglio di via, da un divieto di dimora, Mattia a Milano, mentre Nico si trova già alle Vallette per un'altra vicenda, per un altro appunto procedimento penale che lo vedeva protagonista di una resistenza contro la polizia. Tutti vengono portati alle Vallette, il carcere torinese. Chiara si trova ovviamente nella sezione femminile, ma diversamente dagli altri si ritrova immediatamente isolata, quindi senza possibilità di avere contatti con altri detenuti. Un procedimento blocca subito i colloqui con conviventi e familiari. Il 30 gennaio del 2014, quindi poco più di un mese dopo, i compagni vengono trasferiti nelle celeberrime e sinistre sezioni di alta sicurezza. E quindi Chiara finisce a Rebibbia, una delle poche delle sezioni ad alta sicurezza per detenuti politici anarchici in Italia. Claudio viene portato a Ferrara, mentre Mattia e Nico verranno portati a San Michele, ad Alessandria. Il 22 maggio inizia il processo in aula bunker, l'aula che è praticamente contigua al carcere delle Vallette. Viene scongiurato il procedimento attraverso videoconferenza. Mentre poco più di una settimana dopo vengono notificati altri mandati di cattura per la vicenda, per la lotta che a Torino ha visto protagonisti gli stessi compagni, la lotta contro gli sfratti. Ma essendo appunto i compagni già in carcere, di fatto la situazione non muta. A metà luglio del 2014 vengono arrestati altri tre compagni della zona milanese, accusati di aver partecipato allo stesso evento, allo stesso attacco. E con l'autunno del 2014, appunto, il processo va avanti con ritmi più serrati. Una data importante che vale la pena ricordare sicuramente è quella del 24 settembre, dove appunto i quattro rilasciano delle magnifiche dichiarazioni in aula che, come dire, rilanciano la lotta, hanno sicuramente un peso per quello che riguarda questa lotta, che comunque, al di là dei loro arresti, continua ad andare avanti con iniziative di solidarietà, iniziative di lotta. A metà dicembre del 2014 il primo grado volge alla fine e appunto i compagni vengono condannati a 3 anni e 6 mesi. Una marea di giorni se si pensa, ma sicuramente un forte sospiro di sollievo possono tirare i NOTAV, perché appunto le richieste iniziali erano di 9 anni. Una settimana dopo, quindi il 23 dicembre 2014, i quattro vengono, come dire, beneficiati della custodia cautelare in casa e non più in carcere. Quindi da quel 23 dicembre 2014, quasi un anno fa, i nostri cari amici e compagni sono tuttora i domiciliari. Domiciliari che ovviamente erano iniziati con delle restrizioni, quindi senza possibilità di incontrare nessuno, mentre ora come ora, appunto, possono ricevere visite a casa. Bene, dopo questa dovuta introduzione andiamo quindi a sottoporre alla vostra attenzione questa interessante, bella, sicuramente toccante a tratti intervista realizzata, come dicevamo in introduzione, con tre dei quattro NOTAV accusati di terrorismo. Una chiacchierata realizzata con Chiara, Nicolò e Claudio. Abbiamo deciso di sottoporla alla vostra attenzione appunto spezzettandola in alcuni tronconi che introducono così diversi argomenti di riflessione. La prima parte che andiamo a a proporvi dopo aver fatto da uno sguardo alla questione appunto dell'accusa di terrorismo che ancora una volta, nonostante le varie dopo essere stata bloccata più volte dalla Cassazione, ritorna ancora una volta in questo processo di appello, un processo d'appello che vede anche la discesa in campo di Maddalena, insomma una figura importante all'interno della procura torinese. Più volte sono state fatte anche riflessioni su questa questione, sul significato anche politico più generale di una mossa di questo tipo. Anche nell'informazione di Radio Blackout di questa mattina abbiamo sentito questa interessante intervista all'avvocato Losco, quindi andiamo a sottoporre al vostro giudizio questa prima parte di intervista, dove si ragiona appunto sul ruolo della Cassazione, sull'accusa di terrorismo e appunto sul giudice Maddalena. Buon ascolto su Cattivi Pensieri, su Blackout. Ciao a tutti, io sono Nico. Ciao a tutte e a tutti, io sono Claudio. Ciao a tutti, innanzitutto. Allora, secondo me forse si può fare un chiarimento su a che punto siamo, per arrivare a dire anche può chiedersi perché Maddalena viene fuori, perché viene fuori l'accusa ancora di terrorismo. Siamo stati arrestati a dicembre del 2013 con appunto l'accusa di terrorismo e l'accusa dei reati 280 e 280 bis, fabbricazione, porto in luogo pubblico di armi e materiale esplodente, danneggiamento, violenza e resistenza aggravata. Questi erano i reati che ci venivano contestati. In seguito al rigetto la libertà è stata proposta ha poi detto che in realtà per quanto riguardava le misure cautelari l'accusa di terrorismo non era ben argomentata, in poche parole, quindi ha rimandato il tribunale di libertà l'esame di quel reato. Poi a luglio del 2014, quando sono stati arrestati Lucio, Francesco e Graziano, infatti a loro non è stato contestato immediatamente il reato di terrorismo, ma sono stati arrestati per gli altri reati, quindi appunto trasporto e fabbricazione di armi, danneggiamento, violenza, resistenza, eccetera. Non gli è stato contestato immediatamente il reato di terrorismo appunto perché c'era questa Cassazione che era stata fatta per noi e che in qualche modo non in maniera anzi parecchio approfondita diciamo argomentava il perché non in realtà secondo loro non sussisteva questo reato. Ai tre compagni Lucio, Francesco e Graziano è stato poi in seguito contestato il terrorismo e quindi è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare una settimana prima della sentenza del primo grado per noi quattro, che è stata a dicembre del 2014. Questo così molto probabilmente per creare una sorta di pressione sui giudici del nostro processo. In ogni caso poi noi alla settimana successiva, quando Lucio, Francesco e Graziano sono stati a loro volta arrestati per terrorismo, poi c'è stata in realtà per noi l'assoluzione dall'accusa di terrorismo e loro tre hanno poi fatto ricorso presso il Tribunale della Libertà per la custodia sempre per il terrorismo e il Tribunale della Libertà ha a quel punto respinto l'arresto per loro tre per terrorismo. La procura ha fatto di nuovo, si è rivolta alla Cassazione per l'accoglimento di quell'arresto e a luglio di quest'anno del 2015 la Cassazione ha rigettato il ricorso della procura. Quindi per questo ci sono queste due Cassazioni che a favore, diciamo, o meglio contro l'accusa di terrorismo. La prima, la nostra, per la custodia cautelare che riguardavano i quattro e poi la seconda per la custodia cautelare che riguardava Lucio, Francesco e Graziano. Entrambe le Cassazioni quindi hanno a che fare con la sussistenza del reato rivolta alla custodia, cioè al motivo per cui vieni arrestato. È una cosa diversa dal motivo per cui vieni processato, ma comunque la nostra, la prima, sicuramente va molto a fondo nel merito, quindi insomma è abbastanza, va abbastanza in profondità e quindi tocca parecchio anche l'analisi del reato in sé. Quelle di Lucio, Francesco e Graziano ancora non escono le motivazioni e quindi si dovrà vedere un po' come viene sviluppata questa Cassazione, ma si può dire tranquillamente che due Cassazioni che sono appunto il terzo grado di giudizio in ogni caso rigettano questa accusa. Nonostante questo, e anche nonostante appunto la sentenza di primo grado per noi quattro, che ha anche lì rigettato l'accusa di terrorismo, nonostante questo appunto in secondo grado in appello per noi quattro viene riproposta. Sì, secondo me può valere la pena aggiungere e anzi continuare, direi, il ragionamento di Chiara, cercando magari di capire che funzione ha l'accusa di terrorismo e la sua riproposizione in questo momento, ma ecco, mi verrebbe quasi da dire che la sua riproposizione è anche abbastanza, può essere anche abbastanza svincolata dalla fase attuale della lotta, e ha un senso se vista anche in un'ottica più generale. La riproposizione dell'accusa di terrorismo ha un senso anche se non confermata, e quindi anche se come speriamo tutti non venga confermata da una sentenza, perché di fatto costituisce un ottimo pretesto per la controparte, per la questura, per la procura per continuare a reprimere in Val di Susa e non solo rispetto a questa lotta su varie intensità, e quindi anche su tutte le forme repressive minori, se vogliamo dirlo così, che hanno coinvolto e che coinvolgono questa lotta. Da un certo punto di vista è come se l'accusa di terrorismo piazzasse lì una pietra miliare che funge un po' da metro, da misura con cui guardare tutto quello che accade in Val di Susa e tutto quello che per la controparte deve essere represso. E quindi di fatto io penso che illumini un'intera strategia repressiva e la inserisce all'interno di un medesimo discorso, che poi è il discorso è il discorso da cui traspare di fatto la narrazione che la controparte vuole dare di questa lotta e che vuole anche imporre, cioè una narrazione fatta di tutta quella retorica, di tutto quel linguaggio che abbiamo visto ampiamente dispiegati durante il primo grado, non solo in aula ma anche attraverso tutti poi anche i vari apparati di informazione, che i mass media eccetera, che ne hanno voluto chiacchierare sopra e quindi ecco riconfermare tutta quella narrazione lì. Io vorrei anche un attimo tornare in riflessione su quando nasce questa accusa di terrorismo. Questa accusa di terrorismo siamo poi riusciti a capire guardando le carte che nasce all'incirca nel giugno del 2013, quindi in un periodo di una discreta conflittualità in Val Susa. Perché nasce un'accusa del genere? Si venivano da 2 o 3 anni, cioè dal 2011, di lotta molto intensa, una lotta che ha avuto che è stata una grande cassa di risonanza, e in più dopo gli arresti che c'erano stati per lo sgombero e l'assedio alla Maddalena, la lotta non si era fermata, ma c'erano state una serie di azioni che evidentemente non erano tollerabili. Lo Stato o chi per esso doveva dare una risposta, no? dal giugno, da quando è stata pensata da, in procura piuttosto che anche in qualche redazione di giornali, si è iniziata a costruire una campagna stampa che poi è sfociata, ed era anche quasi scontato, no? Nell'autunno del 2013 che uscisse fuori questa accusa di terrorismo, tutti i giornali ne parlavano. Questo per dire che alle volte si dice che il terrorismo è un'accusa insensata. Sì, è davvero insensata, però un'accusa di terrorismo non nasce dal nulla, nasce da una lotta reale. Senza una lotta reale, io dubito che si azzarderebbero ad andare così oltre. Questa lotta ha creato non pochi grattacapi alla controparte, e bisognava dargli un fermo secco. Oppure si temeva che un certo tipo di azioni o la forza che comunque questo movimento continuava ad avere potesse ampliarsi in un modo che per loro era incontrollabile. Il terrorismo, per quanto possa essere vista come un po' un azzardo, aveva quello scopo. Sulla figura di Maddalena, cioè, molti dicono, beh, siamo arrivati a questo punto perché insiste. Lui è stato sempre abbastanza coerente, no? Con Caselli, addirittura a gennaio, inaugurando l'anno giudiziario, oltre a citare l'ISIS per avere più potere alla magistratura per intercettazioni, controllare la vita di tutti, il secondo argomento che citava era appunto la nostra assoluzione dall'accusa di terrorismo. Quindi ci ha messo la faccia questi personaggi, sappiamo che anche se fanno una brutta figura non ci sono giornali che gliela fanno pesare. Sì, poi io direi anche un'altra cosa su Maddalena. Alla fine lui in questo momento, in questa vicenda, è sicuramente l'uomo dello Stato che difende lo Stato, sarà sempre il paladino della giustizia in qualche modo, no? Potrà sempre presentarsi così, in ogni caso. Ok, sempre all'ascolto di Cattivi Pensieri sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci siamo ascoltati questa prima parte di intervista con Chiara, Claudio e Nicolò, dove si è fatto un po' il punto sulla questione dell'accusa di terrorismo, sul ruolo della Cassazione e della discesa in campo del PM Maddalena. Andiamo verso la seconda parte, appunto, del contributo. Allora, abbiamo una domanda che ovviamente è ristretta nell'arco di pochi minuti, ma che affronta una parte importante di tutta questa storia, che è la parte della detenzione. Non c'è modo di approfondire che cosa sia il carcere, come funzioni il carcere in quanto tale, ma quello che ci siamo sentiti di chiedere ai nostri cari amici è che appunto raccontassero qualcosa su questa porzione particolare di carcere, su questa frazione che sono le sezioni di alta sicurezza. Una storia che appunto ha coinvolto anche tutti coloro che hanno dimostrato una solidarietà verso questi compagni e che appunto possono essere incuriositi da cosa sia di fatto una sezione di alta sicurezza e di come funzioni. E quindi abbiamo preparato quest'altra domanda, diciamo, su quale sia la funzione di queste sezioni particolari. Bene, quindi ricordiamo, siamo sempre in diretta dalle libere frequenze di Blackout, in diretta dai domiciliari del Buontosci. Vi ricordo, per i vostri sms, già ne arrivano a qualcuno, andremo poi ad analizzarli successivamente, vi ricordo il numero 320-8827-255 e quindi un buon ascolto con la seconda parte dell'intervista. Le sezioni di alta sicurezza vengono istituite nel 2009 e sono l'evoluzione del circuito EIV, elevato indice di vigilanza. Sono, se vogliamo, quello che rimane dalla politica penitenziaria che parte dagli anni 70 e arriva ai giorni d'oggi, che prevede una separazione fra i vari detenuti. Oggi il sistema penitenziario italiano si divide in quattro categorie. La bassa sicurezza, in cui sono sottoposti alcuni detenuti per reati che hanno problemi con la tossicodipendenza, la media sicurezza, in cui c'è la gran parte dei detenuti, l'alta sicurezza, in cui sono detenuti con accuse che vanno dal terrorismo, eversione, mafia o traffico internazionale di stupefacenti, e poi quello che è il regime di massima sicurezza, ovvero il 41 bis, dove ci sono detenuti per reati di terrorismo e avversione e per lo più per mafia. Siamo stati tutto il tempo della nostra carcerazione in regime di alta sicurezza perché eravamo accusati appunto di 280, cioè attentato con finalità di terrorismo, e quindi eravamo collocati in... chi ha riservato questo spazio. La differenza tra l'alta sicurezza e un regime normale è minore di colloqui, 4 al posto che 6, frizioni che però, come dicevo, dipende da carcere a carcere. Ci sono carceri in cui sono molto più pesanti e in carceri in cui forse si sta meglio in alta sicurezza che in un regime normale, perché chi sta in alta sicurezza sono pochi detenuti, che devono farsi la loro pena e sono più, diciamo, di un genere equilibrio, mentre magari un regime normale magari c'è più confusione. Immagino carceri dove più caotici, grandi città dove c'è un clima più pesante. Noi siamo stati divisi, io nel carcere di Ferrara, Nicolò e Mattia stavano ad Alessandria mentre Chiara stava a Rebibbia, perché eravamo classificati AS2, che è il regime per i detenuti con accuse di terrorismo, che si suddivide ancora in tre categorie, che sono categorie ideologiche, no? Noi eravamo stati classificati come detenuti politici, anarchici, e c'erano queste sezioni, poi si dividono ancora in, che adesso sono anche abbastanza piene, per detenuti islamici, no? Quindi accusati di fondamentalismo religioso, e poi per comunismo, quindi tutto quel, la maggior parte compagni accusati di far parte delle Brigate Rosse. E nulla, più o meno è questo. Poi dipende, come dicevo, dipende proprio da carcere a carcere, è un regime più duro, si è separati dalla maggior parte dei detenuti, quindi si è solo con detenuti della stessa area politica, quindi cerca è omogenea come sezione, ha forse delle funzioni di studio, o da una parte impedisce che sovversivi possano incontrare i detenuti comuni, o dall'altra, quella a cui io credo di più, è semplicemente che aspirazioni rivoluzionarie messi in una situazione di, diciamo, di isolamento, perdano il contatto con la realtà. Allora, abbiamo sentito questo contributo su quello che riguarda questo breve contributo su quello che riguarda appunto queste sezioni di alta sicurezza in cui i nostri compagni si sono ritrovati a dover affrontare la loro carcerazione. È doveroso ricordare che in più rispetto a quelle che venivano elencate nel contributo di Claudio, ci sono delle sezioni anche per i fascisti, ovviamente, quindi si riprende quella divisione ideologica di cui si parlava sopra, per cui ci sono delle sezioni di alta sicurezza per fascisti, così come per comunisti e anarchici. È assolutamente importante dire che poi diciamo le sezioni di alta sicurezza chiamate AS2 sono quelle relative ai prigionieri politici, ma poi invece di sezioni di alta sicurezza catalogate come 3 AS3 è piena invece l'Italia, ovvero praticamente in ogni carcere si trova una sua sezione di sicurezza che ospita appunto, come si diceva, detenuti accusati di crimini, come dire, legati alla criminalità organizzata, ma anche detenuti con tutti i vari articoli di sicurezza interna, come il 14 bis e il 4 bis, ovvero tutti come dire, quei capi di imputazione che prevedono l'ostatività. Ecco, adesso vorremmo riprendere la questione della carcerazione con una parte invece un po' più personale, una parte un po' più, come dire, intima, che vuole dare un'occhiata appunto, come dire, personale, personalistica, su quella che è appunto una detenzione. Questo per evitare appunto le varie sfoci ideologici o teorici che ovviamente in questa sede non possiamo permetterci. E quindi buon ascolto con la seconda parte relativa alla carcerazione. Allora, qual è la prima cosa che ti manca? Ma forse così, giusto perché può valer la pena fare un piccolo inciso iniziale. Qual è la prima cosa che ti manca? Tutto, nel senso, io ho un'esperienza leggermente diversa dagli altri perché mi è capitato di finire in carcere un mese prima per un altro episodio legato a una resistenza nei confronti della polizia, e quindi mi sono fatto un mese di carcere ai Nuovi Giunti delle Vallette. Non la voglio fare molto lunga, però può valer la pena anche dire, ad esempio, che quando entri in una sezione come quella dei Nuovi Giunti delle Vallette, ti sembra a volte, non so, la sensazione è quella di entrare, non so, in un posto veramente dimenticato, dove tutto quello che puoi costruirti te lo costruisci da solo o con le persone che ti stanno attorno, e quindi ti manca veramente tutto, per dire, tutto quello che riguarda principalmente i bisogni materiali. In questo caso sto parlando di questo, e lo dico perché secondo me è importante anche rendersi conto che se si hanno delle conoscenze in galera, se si conosce quel mondo e si hanno delle conoscenze anche proprio di persone che ci stanno dentro e che magari uno ha avuto l'occasione di incontrare fuori, nei propri quartieri, nei propri paesi, per conoscenze dirette o per delle lotte che ha portato avanti, quelle conoscenze quando si finisce dentro possono essere di grande aiuto e possono darti una mano anche ad affrontare le prime difficoltà della galera e a sopperire ai primi bisogni e quindi anche alle prime mancanze. Detto questo, che mi premeva dirlo perché secondo me è importante, direi, per continuare sulla tua domanda, direi quest'altra cosa. Qual è la prima cosa che ti manca? Secondo me il contatto. Per contatto intendo sia il contatto più umano, emotivo, sia proprio il contatto fisico. E non è secondo me solo la prima cosa che ti manca, ma a seconda del tipo di carcerazione che ti fai, e comunque adesso che se ne dica, io penso che noi non ci siamo fatti una carcerazione lunga, nel senso che un anno è sicuramente un anno, ma dentro finiscono persone che si fanno molto più tempo, e io personalmente ho conosciuto persone che si sono fatte molto più tempo di un anno. Però a seconda di che tipo di carcerazione che ti fai, il contatto può essere anche l'ultima cosa che ti manca. È vero che il contatto e quindi la capacità di entrare in sintonia, di sciogliersi, è un qualcosa che viene raccontandosi, conoscendo le prime persone, creando i primi legami di amicizia e di stima, e quindi è sicuramente una cosa che si scioglie. Io poi, essendo stato in carcere con Mattia, questa cosa mi ha aiutato molto, perché avevo un compagno molto vicino a me e a cui tengo molto, che mi ha aiutato in questo. Però è anche vero che la galera è una dimensione prettamente resistenziale, e quindi dal momento in cui sei dentro al momento in cui esci, tu resisti alla galera, ed è come se ti portassi comunque costantemente dietro una piccola cosa che ti stringe e che ti morde lo stomaco, ed è come se ti rimanesse sempre una minuscola riserva, una piccola distanza che ti mantieni e che da un lato ti aiuta sicuramente a restare concentrato e ad affrontare la difficoltà e la fatica della carcerazione, però allo stesso tempo ti impedisce di donarti completamente, e quindi di fatto ti priva qualcosa, perché questo qualcosa, questo donarsi, se lo vogliamo chiamare così, se uno riuscisse veramente a farlo in un posto come la galera, sarebbe uno strumento secondo me ancora più potente per affrontare la carcerazione. Però mi rendo conto che la paura di rimanere delusi, e quindi di aprirsi completamente per rimanere delusi, ti blocca, anche perché in galera le emozioni, soprattutto quelle tristi e negative, si metabolizzano con molta più lentezza. E per concludere dico che intendevo un contatto anche fisico, perché io il primo abbraccio che ho dato a una persona in galera, diciamo che non fosse Mattia, perché ci conoscevamo meglio, quindi ci confortavamo anche nei momenti di difficoltà, però l'ho dato a un mio compagno di sezione, ad Alessandria, ed è stato nel momento in cui sono uscito e mi hanno detto che mi davano gli arresti domiciliari, e quel momento lì è stato quasi liberatorio, e mi sono detto, ma perché cavolo non l'ho fatto prima? E insomma, penso che questa dimensione del contatto vada molto curata e tenuta bene a mente quando si finisce in galera. io volevo prima di rispondere esattamente a questa domanda, volevo solo aggiungere una mia riflessione sulla S. Per cui secondo me in generale il carcere, per chi ci finisce, per tutti quelli secondo me che ci finiscono dentro, appare come un mondo stupido, perché è pieno di cose insensate. Però questo probabilmente non può portare a ingannarsi, nel senso che in realtà ci sono, è vero che è un luogo stupido, gestito da persone stupide, però è anche vero che è un luogo che ha delle caratteristiche precise che bisogna anche capire, per cui secondo me la S in tutte le sue forme, quindi siccome non è soltanto per i politici, ma è anche per appunto i reati di mafia, camorra, criminalità organizzata in genere, comunque secondo me mantiene, oltre che ha una fortissima funzione di divisione dagli altri detenuti, quindi affinché chi è in AS, quindi sia chi appartiene alla criminalità organizzata o sia un detenuto cosiddetto tra virgolette con caratteristiche politiche, bla bla bla, quindi mantenere questa divisione per evitare il condizionamento o l'adescamento, no? Cosiddetto, ha una fortissima, secondo me, funzione di studio. Cioè, secondo me, chi finisce in AS deve essere sempre molto consapevole di essere continuamente studiato in tutto quello che fa, in come si muove, in come si relaziona e in cosa poi quella forma lì di detenzione lo condiziona, lo modifica, eccetera. Questa è una cosa che io ho sentito moltissimo. Tra l'altro la S in cui ero io era una S probabilmente molto, molto particolare, con molti spazi, le sezioni aperte, quindi cella aperta, spazi raggiungibili autonomamente, insomma una situazione abbastanza particolare, no? Anche, cioè, sicuramente rispetto a tante sezioni comuni, molto, con delle caratteristiche sicuramente tra virgolette mille virgolette più vivibile. Però ecco, la sensazione che ho sempre addosso è di essere allo zoo, cioè un animale studiato, controllato. Rispetto alla domanda specifica, cioè cosa ti manca appena entrato e qual è il primo sintomo della galera che ti si attacca, secondo me coincidono, cioè almeno per me hanno coinciso, nel senso che la prima cosa che ho sentito quando sono entrata è stata di essere, in un certo senso, di non essere più la persona che ero, cioè di avere l'umanità che avevo prima, cioè mi hanno, il carcere tende a toglierti di personalità, no? A privarti la personalità con una sorta di apparente indifferenza, di stacco rispetto a chi poi ti gestisce, di essere anche un oggetto, per cui ti prendono da un punto e ti portano a un altro punto, poi ti prendono e ti portano ai colloqui, poi ti prendono e ti portano alla, sei in un pacchetto. E questa cosa ti disumanizza subito, secondo me questa è una cosa immediata, una sensazione che io ho avuto immediata, per cui ti senti che vogliono farti, dire, quasi diventare o un bambino appunto, no, che ha bisogno di tutto, o quasi una persona che non è nel pieno delle sue facoltà mentali, come si dice. Ecco, io questa cosa qui, e secondo me ci vuole, cioè io è la prima cosa che ho sentito che mi attaccava, che mi è mancata, quindi la mia umanità, nel senso che ho iniziato subito a sentire che dovevo stare attenta a non perderla, è il primo sintomo sì, che ho sentito, ecco, questo. Anch'io, più banalmente, la prima cosa che percepisci è che ti manca spazio, no? Vedi questa sezione e sai che più o meno in un giorno hai visto tutto quello che vedrai per il resto, cioè per un bel pezzo della tua vita, no? Poi non sai più o meno quanto ci starai e ti impressiona il fatto che per qualsiasi cosa che devi fare, da andare in doccia a andare all'aria, c'è un secondino che ti accompagna, no? banalmente non sei più libero, no? di spostarti, di andare da un ambiente a un altro, no? Ai domiciliari uno si può spostare e cambiare semplicemente stanza, in carcere no. E anche da fuori lo sai benissimo, no? Però ti chiedi, cioè, è assurdo vivere in quel modo, cioè, anche per me era inconcepibile. Pure quando ci finisci dici, vabbè, comunque alla fine tanta gente ci sta e tanta gente ci sopravvive, no? Al carcere, per fortuna. Chiedi come, no? Dici, bene, adesso tocca a me e ti devi inventare qualcosa, no? Poi secondo me il carcere, è vero che è stupido, ma è anche fatto di tanti simboli, no? Quindi quando tu entri e si apre, poi chiude un portone, si chiude un cancello, no? Quindi non se li avevo contati, erano tipo 7-8, calcolando dal primo cancello ai due portoni delle mura, ai vari, quello della sezione della rotonda, fino alla tua cella, no? Avevo 7-8 cancelli da superare, che si dividevano tra me e la libertà, no? E quindi ogni cancello che superi ti sembra di fare un passo verso l'abisso, no? E questo chiaramente è un simbolo che ti pesa, no? Come, non so, c'è anche questione di rumori, no? Le guardie che vengono a battere le sbarre per vedere che non siano segate, no? Magari vengono 3 volte al giorno, cioè uno non ha il tempo di segare le sbarre, anche se è molto bravo in quel lasso di tempo, ma il rumore che fanno, no? Questo ta ta ta ta ta, è un rumore che poi ti entra dentro, e se per caso in quel momento magari so leggi un libro e ti stai distraendo, quel rumore ti ricorda in che posto sei, no? E quindi diventa un po' una colonna sonora, è una questione di simboli. Superate le 14 da alcuni istanti, sempre in ascolto delle libere frequenze di Blackout, con la trasmissione Cattivi Pensieri in diretta dai domiciliari del Buontosci. Per chi si fosse sintonizzato da poco, ci stiamo ascoltando insieme questa interessante intervista realizzata con Chiara, Claudio e Nicolò, alcuni dei compagni arrestati ormai 2 anni or sono quasi, in seguito a un attacco al cantiere della Maddalena nell'ambito della lotta notava, in vista del processo d'appello che inizierà questo giovedì nell'aula bunker del Tribunale di Torino, fianco del carcere delle Vallette. Ci stiamo ascoltando questa intervista, sono stati toccati diversi punti in queste prime parti analizzate, questa lunga riflessione anche sull'esperienza carceraria. Nella parte che andiamo a sottoporvi adesso si parla invece della solidarietà. Numerose sono state le iniziative in questi anni, delle più disparate, a sostegno di questi compagni, a rilancio della lotta no TAV, insomma alcune chiacchiere con loro anche per percepire come la solidarietà viene interpretata all'interno del carcere, qual è il suo ruolo, qual è la sua forza. Buon ascolto sulle libere frequenze di Blackout. La solidarietà ricevuta è stata davvero qualcosa di incredibile, anche impensato. La maggior parte del percorso di solidarietà è avvenuto all'incirca nei 6 mesi primi del nostro arresto, e meno, noi avevamo la censura. E la cosa curiosa era che dalla mole di posta che ricevevamo era davvero tanta, no? Però era curioso il fatto che avessi la censura e quindi magari la posta ti arrivava 2 volte a settimana, una volta a settimana, alle volte una volta ogni 2 settimane, perché il signor censore era in ferie, in mutua, no? E arrivano queste plichi di posta con 20-30 cartoline, 10-15 lettere, e c'era una notevole anche fatica da parte dei secondini che te la portavano, perché ogni lettera deve essere trascritta, mittente, destinatario, tutto deve essere ben preciso, no? E non, ed era abbastanza difficile, perché comunque c'era una sorta di controllo, qualcosa passava, qualcosa non passava, no? Determinate azioni non venivano riportate, no? Altre venivano posticipate. Ricordo che prima del corteo del 10 maggio, il corteo grosso fatto a Torino in nostra solidarietà, prima del processo non mi veniva consegnata la posta, dopo mi è arrivato un mucchio di posta. Comunque io mi sono poi reso conto bene di quello che era successo solo quando ero dai domiciliari o poi con un PC davanti, iniziato a vedere video, leggere cronologie. E, ragazzi, o eravamo davvero così importanti o rischiavamo davvero grosso, non lo so, forse un po' tutte e due. Ok, per quanto mi riguarda, non so, così su due piedi mi verrebbe in mente un'immagine. Prima di tutto l'immagine del corteo del 10 maggio, forse è un po' ingenuo dirlo così, però quando sei in una stanza di 5 metri e accendi il TG3, il TGR, appuntamento fisso, delle 7 e mezza di sera, e vedi migliaia di persone che sfilano con davanti uno striscione con i tuoi nomi eppure i nostri genitori, dici vabbò, è fatta. A parte questo, che ovviamente è una cosa anche prettamente emotiva e personale, parlo del corteo del 10 maggio anche perché subito dopo è successa una cosa che mi ha colpito molto, che io, come penso anche, abbiamo potuto leggere dal segne stampa e delle raccolte di informazioni che ci arrivavano. Praticamente è successo che dopo il corteo un tot di persone, penso della Disusa e non solo, over 60 e non solo, hanno deciso di rimettere in piedi le colazioni davanti al cancello di Chiomonte. Ecco, questa cosa qua è molto curiosa perché, vista da dentro, non sembrava solo un gesto di solidarietà, ma sembrava tirasse fuori anche un'esigenza, cioè un'esigenza reale, e che all'epoca immagino fosse reale e attuale, della lotta e di chi ci stava partecipando. Per stare assieme, ma anche per fare qualcosa di pratico e quindi per lottare, avvicinato al cantiere, quindi immagino anche con un qualche ruolo di monitoraggio e magari anche un luogo dove discutere così sul campo e farsi venire poi sul campo qualche idea. E queste sono mie congetture che mi sono fatto quando ho letto questa notizia mentre ero dentro. Dopodiché è significativo, secondo me, che, non so, a partire da una solidarietà specifica a quattro persone accusate di un'azione particolare, in questo caso un sabotaggio, si potesse fare un salto e quindi che delle persone che partecipano alla solidarietà, che partecipano alla lotta, guardandosi dentro e guardandosi negli occhi, si dicessero vabbè, ok, siamo qua, stiamo dando solidarietà a questi quattro ragazzi, ma poi di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di questo? Ok, facciamolo, andiamo. Secondo me è una cosa molto bella il fatto che fuori succedano queste cose mentre noi eravamo cioè il fatto di leggerle da dentro e di sapere che accadessero queste cose, oltre a far sorridere e a far piacere, dà anche da pensare, e il fatto di avere da pensare sicuramente è un grosso aiuto. Io avrei da raccontare 1000 cose come tutti noi, credo, però ce n'è una che mi ha fatto sorridere in un momento particolare, per cui quando ero alle Vallette, essendo appunto isolata dagli altri, dalle altre, quando andavo a colloquio poi mi portavano da sola, mi mettevano in una stanza e mi lasciavano ad aspettare che arrivasse il momento. Intanto fuori le altre detenute stavano insieme, eccetera, eccetera. E un giorno così era rimasta socchiusa la porta della stanza in cui mi chiudevano, ed è stato verso la terza volta, quindi il trimestre per cui poi dopo c'è stata la sentenza a dicembre. È rimasta socchiusa questa porta e sta detenuta mi guarda e mi fa: ma tu sei la Notav? Stava sorridente. Allora gli ho detto, sì, mi fa, minchia, ma fuori è pieno di scritte con i vostri nomi! E questa cosa mi ha fatto un sacco ridere, devo dire, anche un sacco piacere, dà anche il senso, insomma, di dove arriva la solidarietà. Un altro episodio, cioè di solidarietà che siamo venuti a conoscenza, diciamo, in un modo un po' insolito, è stato durante, era gennaio, durante l'udienza del riesame, poi andata male, ma questo poco importa. A un certo punto, dopo che avevano discussi prima gli avvocati, poi i PM, arriva arriva questo magistrato famoso per essere della Juve, riportando la notizia che c'era stata in corso un'occupazione alla sede di Italfer, e tutto indignato per dire che per parlare della nostra pericolosità, no? E scoprire un episodio di solidarietà in questo modo, no? E c'è anche questa, anche, diciamo, anche finta indignazione nella persona nella quale in quel momento ti sta materialmente perseguendo, un po' come ha fatto sorridere. All'ascolto di Blackout, siamo verso la conclusione di questa puntata in diretta dai domiciliari qua, appunto, a casa del Buontosci. Stiamo anche giungendo alla conclusione di questa intervista con tre dei quattro compagni in OTAV. Ne approfittiamo solo un attimo per girarvi alcuni cisti che ci vengono segnalati dalla casa madre di Blackout. Ci vengono segnalati per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, controllori alla fermata del 10 a Porta Susa. Baby. E poi sempre controllori alla fermata sia del 9 che del 10, la fermata Fabrizi in Corso Tassoni. Quindi controllori alla fermata del 10 a Porta Susa e alla fermata Fabrizi in Corso Tassoni. Cisti viaggiate informati. Allora, abbiamo sentito questa terza domanda di questo breve questionario ai nostri compagni che appunto a giorni affronteranno il secondo grado del processo che li vede imputati per un attacco al cantiere della linea ad alta velocità in Val Susa. Questa terza domanda riguardava brevemente la solidarietà, ovviamente appunto come probabilmente lo ribadiranno loro, ovviamente non vogliamo ergerli a protagonisti o a prigionieri per eccellenza in grado di dare appunto vaticini o giudizi sulla lotta. Quello che ci interessa è appunto sentire, dato che ne abbiamo finalmente la possibilità, sentire come loro si sono vissuti certe esperienze, come la detenzione e soprattutto anche la solidarietà che al di fuori dei gusti di ognuno si è sviluppata autonomamente anche per questo per la lotta in Val Susa. Una solidarietà che ha toccato picchi inediti per le lotte degli ultimi anni, con iniziative diversissime sparse per i territori. senza che appunto tra tutti i metodi di lotta se ne come dire, scegliesse uno e uno solo, perché a mio parere queste sono poi le ricchezze degli atti di solidarietà. Quando soprattutto le azioni sono autonome, auto-organizzate, a noi piacciono sempre, anche se poi magari non arrivano ai livelli che vorremmo. Ma insomma, quello che salviamo di ogni cosa è sempre e solo il metodo. E allora adesso affronterei la quarta domanda, la quarta e ultima che chiude questa breve intervista, ovviamente per ragioni di spazio, non mi stancherò mai di ripeterlo, non siamo potuti andare a fondo per quanto ci sarebbe piaciuto sulle questioni teoriche innumerevoli che questa vicenda contiene, ma appunto forse l'ultima domanda è ciò che si avvicina un po' di più alle questioni, come dire, più complicate anche volendo, perché mi sono divertito a chieder loro che cosa rimane di questo gesto, di questo appunto sabotaggio che è stato sulla bocca di tutti in questi ultimi anni, anche perché appunto sono passati ormai 2 anni da quella notte di maggio, e quindi mi sono, come dire, ho chiesto loro che cosa salvano di questo gesto, che ovviamente non è esemplare nella lotta di classe, ci mancherebbe altro, e non è esemplare ma neanche in Valsusa, perché eventi di questo tipo ce ne sono stati di diversa intensità e in diverse riprese, e quindi sentiamo che cosa ci rispondono i nostri cari amici. Prima di tutto, secondo me, vista questa domanda, penso sia importante fare una precisazione, diciamo una doverosa premessa, perché tu dici qual è la cosa che rimane attuale e quindi è lo spunto di riflessione in una lotta attuale. Possiamo parlare di spunti di riflessione, va benissimo, però penso che un compagno rinchiuso, che quindi è costretto a stare distante dai contesti proprio reali nei quali una lotta prende forma, dai rapporti, dal mondo in cui prende forma questa lotta, un compagno rinchiuso e costretto distante, grosse indicazioni da dare rispetto a cosa fare fuori sicuramente non ce le ha e non le potrà mai avere, e tantomeno su quali obiettivi individuare o prospettive. Per cui questo mi sembra importante. Poi sicuramente possiamo provare a fare un discorso, a tirare fuori qualche idea rispetto alla domanda che tu poni. Allora, secondo me si può iniziare dicendo questo. Se noi guardiamo a tutto quello che si è mosso a partire e attorno a quell'azione, quell'azione del maggio 2013, sicuramente, vabbè, qua probabilmente declino un po', ritorno un po' sul discorso della solidarietà, ma trovo che sia importante, ha ricevuto un sostegno enorme. Ora proviamo un attimo a spogliare tutto quello che è stato detto e fatto, diciamo delle considerazioni più in un certo senso eccessive, per quanto spesso anche premurose, accorate, forse anche dettate da una certa paura di vedere dei compagni costretti ad anni e anni di prigione. Però erano appunto degli eccessi, come per esempio parlare, per esempio dire, non so, quei poveri ragazzi accusati solo di aver bruciato un compressore, così come gli eccessi in alto, cioè perché sono dei coraggiosi, i più coraggiosi ragazzi, e quindi tutta questa retorica un po' da eroi. Ecco, secondo me vale la pena provare un po' a guardare oltre queste cose e vedere poi qual è forse il succo, no? È la cosa più interessante di questo enorme sostegno, che è secondo me anche che poi è anche la sua capacità di essersi diffuso a macchia d'olio, e quindi il contagio che ha avuto, no? Perché non so, se io mi mettessi nei panni di una persona so come dire, che la mattina si sveglia e legge di questa azione su un giornale. Ecco, io non darei così per scontato che questa persona dicesse, cioè, portasse il suo sostegno e dicesse questa è una bella cosa, ma per un semplice motivo, che comunque l'immaginario a cui questa società e il mondo in cui viviamo ci ha abituati, in qualche modo ci ha costretti, ci ha imboccati, che è anche, se vuoi, un immaginario fatto di molte formalità e che porta a pensare che le cose non possano essere modificate, non possano essere cambiate in alcun modo. Ecco, leggere di una notizia di un sabotaggio di un cantiere con appunto persone che vanno, tirano cose dentro, tirano, accendono fuochi, danneggiano cose, io non sarei stato così, non sarei così sicuro che una persona leggendo una notizia di questo genere la sostenesse così a cuore aperto. E invece questo è successo. E questa, secondo me, è una grande cosa, ed è la cosa, forse una delle cose più interessanti della solidarietà e di ciò che si è mosso attorno a quell'azione. Perché non è solo, non so come dire, non è solo, cioè, travalicare nella testa di chi sostiene questa azione, non è solo travalicare i confini della paura o del coraggio, oppure della legalità e dell'illegalità, e quindi di ciò che è giusto e sbagliato, che sicuramente questo è stato fatto. Ma è proprio una questione di rimettere in discussione degli interi schemi mentali con cui e immaginativi, quindi di cosa sei disposto ad immaginarti che sia possibile, cui appunto questa società ci impone di rimanere invece costretti dentro delle piccolissime mura e dei piccolissimi argini. Sì, in più se volessimo cogliere un elemento particolare di quella situazione, che poi in realtà si ripete spesso all'interno di questa lotta, è anche l'autonomia di un gruppo di persone che appunto decidono di fare una cosa, vanno, la fanno e con il loro gesto comunque portano il loro contributo. Alla fine anche la ricchezza di questa lotta è data anche da questa cosa, dal fatto che le iniziative collettive, ma anche tutte le iniziative autonome, appunto, dialogano direttamente con tutte le altre, quasi si raccontano a vicenda. E questo sicuramente è una forza, cioè quando un fatto è capace di parlare, insomma, direttamente al cuore delle altre persone che sostengono quella lotta. Ecco, a questo punto infatti mi viene in mente l'iniziativa che c'è stata poco tempo fa degli over 60. Ecco, quella è per me un'iniziativa, per noi ma penso per tutti noi, un'iniziativa che ci ha davvero entusiasmato, ci ha scaldato il cuore, in questo senso anche, insomma, un gruppo di persone ha preso e si è messa in gioco. Nell'intervista che hanno fatto dopo, uno di loro ha detto una cosa bellissima, no? Che è abbastanza, secondo me, anche può caratterizzare un po' tutta questa lotta, no? Quindi ha detto: chi semina vento raccoglie tempesta, e noi siamo la tempesta. We'll be right back. Bene, sempre all'ascolto di Radio Blackout Cattivi Pensieri, ci siamo ascoltati anche quest'ultima parte dell'intervista a tre dei quattro notav accusati di terrorismo che, come abbiamo ricordato, torneranno a per il processo d'appello in aula giovedì all'aula bunker delle Vallette. Varie quindi, come abbiamo sentito, le questioni che sono state toccate, da quelle più prettamente tecniche riguardo al processo fino alle esperienze sulla detenzione, la solidarietà, anche la questione del sabotaggio e dell'azione, insomma, in quest'ultimo intervento. Sono arrivati durante la puntata numerosi messaggi anche un po' polemici che insomma tirano in ballo questioni importanti riguardo appunto la violenza, il sabotaggio. Il ruolo degli anarchici dentro delle lotte più allargate. Chiaramente le cose da dire sarebbero tante, sarebbe quasi un peccato, come dire, restringerle in pochi minuti di trasmissione che ci rimangono, così come evidentemente la forma SMS non aiuta a formulare con chiarezza le domande, perché per quello che mi riguarda appunto i messaggi mi sembravano molto più polemici e allusivi a tutta un'altra, ad un altro discorso, ad un altro dibattito, piuttosto che centrati su quanto appunto è stato detto da quello che è emerso da questi contributi audio. Comunque per quello che riguarda per esempio che cosa ne pensano dei compagni ristretti sul sabotaggio e sul ruolo degli anarchici, sulla distruzione e quant'altro, ricordiamo a tutti che sono visitabili perché si trovano ai domiciliari e hanno come dire, tutto il gusto di dibattere su questioni che a mio parere e sicuramente anche a loro risultano continuamente importanti. Sì, in particolare quest'ultimo messaggio che arriva, possiamo anche leggerlo, insomma, non c'è problema. Come mai, secondo voi, alcuni anarchici nel contesto NOTAV decidono di poter essere relegati nel recinto della violenza solo contro le cose, quando magari in generale apprezzano anche quella contro le persone? Perché in Valsusa si mitiga, si attenua, si cambia, ci si adatta? Questo è il messaggio, insomma, che rilanciamo anche nell'etere, come si diceva adesso, rispondere in pochi istanti. Ma la prima, a parte che qua non si risponde per gli anarchici, men che meno, già tanto se rispondiamo per noi stessi. E poi, secondo me, il fatto di considerare azioni come pure in sé, come sempre valide, o comunque che l'azione sia qualcosa di puro, che non debba mai essere contestualizzata al contesto in cui viene, al significato che può avere in quel dato momento spazio-tempo, mi sembra una visione un po' riduttiva. Penso che ogni nostra azione in qualunque contesto sia da contestualizzare, assume un significato a seconda appunto del contesto, insomma, mi viene da dire così, non mi sento di dire che esistano azioni pure, valide in sé, che siano sempre efficaci, che siano sempre, insomma, sempre valide nella loro purezza. Questa è un'idea che mi viene così veloce. Sì, mi viene immediatamente, ma con quasi una battuta, la questione della violenza sulle persone. Io adesso non ho dati alla mano, ma penso che per quello che riguarda i membri delle forze dell'ordine in Valsusa qualcosa lo abbiano ricevuto, cioè diciamo che loro molto spesso l'hanno prese. Quindi secondo me la questione della la dicotomia, questo bivio che pare aprirsi nella testa di tanti di fronte alla violenza su cose, violenza su persone, per me è assolutamente gira abbastanza a vuoto, perché quando c'è da far male a qualcuno, se è necessario, lo si fa, ma di certo non deve essere quello il parametro, secondo me, all'interno di qualsiasi lotta, non solo in una lotta allargata. E quindi, insomma, mi dispiace veramente non poter approfondire la questione, perché ovviamente non è da banalizzare, vogliamo scusarci se sembriamo, come dire, affrettati su questi punti, ma insomma, nell'arco della nostra vita radiofonica ci siamo ritrovati spesso a dover affrontare queste questioni e sicuramente ci torneremo anche più avanti. Direi che siamo proprio alla fine, salutiamo ancora chi si fa sentire sempre al numero qui provvisorio di Blackout in esilio. Ancora pochi istanti di musica, poi le dirette continueranno dagli studios di via Cecchi 21A con la trasmissione Spessore. Quindi per questa settimana Simone Tosci vi salutano, l'appuntamento resta per martedì prossimo, sempre dalle 13 alle 14.30 con Cattivi Pensieri. Adesso cercheremo anche di caricare, insomma lo promettiamo ogni volta, cercheremo anche magari di farlo, di caricare gli audio proposti anche sul sito della radio per poterli ripescare quando volete, per poter riascoltare, rifletterci sopra. Per il momento vi salutiamo, un ciao da Simone. E un ciao da Tosci, a martedì prossimo. Ciao. Ciao.